712. Riso in composta. Se non vi pare che a questo dolce sia proprio il nome di riso in composta, chiamatelo, se più vi piace, composta nel riso. Latte decilitri 7, riso grammi 100, zucchero grammi 50, burro grammi 20, sale una presa, odore di scorza di limone. Cuocete il riso in 6 decilitri di latte e a mezza cottura versate nel medesimo gli ingredienti suddetti. Rimuovetelo spesso col mestolo perché si attacca facilmente e quando si sarà ristretto, levatelo dal fuoco ed aggiungete il decilitro di latte lasciato addietro. Prendete uno stampo liscio col buco in mezzo, nel quale il composto venga alto 2 dita almeno, e versategli in fondo e attorno grammi 50 di zucchero sciolto al fuoco, ove gli farete prendere il colore marrone chiaro. Versate il riso in questo stampo e rimettetelo al fuoco a bagnomaria, che così assoda ancora e scioglie lo zucchero del fondo. Per sformarlo aspettate che sia ghiaccio. Ora bisogna riempire il vuoto che è in mezzo al riso con una composta che può essere di qualunque frutta, ma supponiamo di mele o prugne secche. Se di mele preferite le mele rose, che sono dure e odorose, basteranno grammi 200 in natura. Sbucciatele, tagliatele a spicchiettini, togliendo via la parte del torsolo, e gettatele via via nell'acqua fresca ove sia stato spremuto del limone per mantenerle bianche. Mettete queste mele in una casseruola con tant'acqua che le ricopra appena e quando hanno avviato a bollire versate nella medesima grammi 70 di zucchero e una cucchiaiata di kirsch. Cotte che siano, levatele asciutte e ristringete il liquido rimasto per ridurlo a sciroppo, nel quale verserete, quando sarà ghiaccio, un'altra cucchiaiata di kirsch per unirlo alle mele e per riempire con questo il buco del dolce quando lo mandate in tavola. Se vi servite delle prugne, bastano grammi 120 e grammi 60 di zucchero, ma prima di metterle a bollire, tenetele in molle nell'acqua per 5 o 6 ore. Per il resto, regolatevi come nella cottura delle mele, non dimenticando il kirsch. Se il dolce dovesse servire per 10 o 12 persone, raddoppiate la dose. Si serve ghiaccio.